minute conversation with you, with America. Buongiorno America di Stefano Pistolini. Thank you so much. Muchísimas gracias. Prima dama, signor presidente. Signor presidente, sono momenti di relax alla Casa Bianca, anzi alla Casa Blanca, come si è chiamata, per una sera, perché nell'ambito delle giornate in corso che sono dedicate negli Stati Uniti d'America a valorizzare il significato, il peso, il ruolo, il contributo della comunità ispanica, è arrivata anche l'immancabile serata musicale. Sono momenti di relax in mezzo a una navigazione di governo tutt'altro che agevole, e si è suonata musica centro-sudamericana, si è parlato tanto in spagnolo, Obama a più riprese ha dato prova della sua maestria nel parlare lo spagnolo, si è discusso, ci sono stati contributi, le squadre sportive in questi giorni indossano maglie con, come fanno periodicamente, con i nomi in spagnolo, no? I Chicago Bulls sono Los Toros de Chicago, e così in un certo senso si prova a dare anche a ridare, no, all'America anche un respiro interno, sociale, di comunione tra le sue componenti, che per un attimo prenda le distanze, si distacchi un po' dal consueto confrontarsi su problemi di difficoltà, di disagio, quando non di crisi. Il presidente che balla così con maestria, come forse avete visto in televisione, le danze sudamericane, è lo stesso che poco prima deve dire che l'economia americana si sta muovendo nella giusta direzione, ma c'è ancora maledettamente un sacco da fare, oppure è lo stesso che deve prendere atto dal fidato George Mitchell che l'ultima missione in Cisgiordania è andata male. Mitchell gli ha appena fatto sapere di aver trovato un Abu Mazen molto pessimista, molto più pessimista del solito, e che in sostanza è ripartito a mani vuote. Le questioni in Israele per l'amministrazione Obama stanno viaggiando tutt'altro che a un regime apprezzabile. A Washington poi a un certo punto cala la sera e appunto si cerca qualche momento di relax in serate come questa. Ha fatto grandi discorsi Obama, ha detto: nonostante sia difficile da definire, perché si presenta in così tante forme, dal salsa al merengue, dalla bachata al reggaeton, questa musica usa un linguaggio comprensibile a tutti, ci commuove e ci colpisce ogni volta. Insomma, l'America, la Washington in crisi, non avendo niente di meglio da fare, si mette a ballare. Dancing the samba, Tom DeLay and his partner Cheryl Burke. Questa è una storia che sta piacendo un sacco agli americani quando accendono la televisione la mattina, perché tratta sempre di ballo, anzi per la precisione del ballare con le stelle, no? Parole ben note anche dalle parti nostre, riguarda un politico, anzi un ex politico americano di primissimo piano, era noto come The Exterminator, lo sterminatore, per la sua decisione nell'intervenire nelle questioni politiche, è noto come The Hammer perché ti dava certe martellate che gli avversari ancora se le ricordano. Si chiama Tom DeLay, texano, 62 anni, distrutto politicamente parlando dallo scandalo, dal grande scandalo che ormai fa già parte di un passato lontano washingtoniano, quello di Jack Abramoff, delle prebende, della corruzione nella Washington lobbistica. Tom DeLay è stato spazzato via come protettore di questo corruttore, ma si è rifatto una seconda vita come uomo di intrattenimento, di comunicazione e anche di spettacolo, e ha partecipato con un successo straordinario a Ballando con le Stelle edizione americana, facendo una prima apparizione memorabile cantando Wild Thing, dicendo sono io la cosa selvaggia d'America, e poi dopo 3 settimane in cui gli americani ormai lo avevano riscoperto in questo nuovo volto, essendo alla fine costretto al ritiro. The big question that everybody's wondering now that you've been saved to go through, will you actually be able to continue to dance? No, I won't. Sentite, sentite, sentite come restano male gli americani quando vengono a sapere che Tom Delay si deve ritirare perché ha un piede praticamente con una frattura da stress dovuta alle troppe danze e quindi deve momentaneamente rinunciare. Se volete un consiglio e avete 5 minuti a perdere, andate su internet, scrivete Tom Delay in un motore di ricerca video e godetevi le sue esibizioni che sono assolutamente travolgenti e per un attimo vi tengono lontano dalle cosiddette cose serie. Primo piano. Cose serie delle quali invece arriviamo ad occuparci ora noi per fare il punto su una questione di politica estera americana di primissimo piano e non però di chiarissima interpretazione, motivo per cui ci siamo anche muniti di un esperto che la sa più lunga di noi e ci può dare anche una chiave di lettura al riguardo. L'esperto in questione è Alessandro Politi, direttore dell'Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma. La questione è Afghanistan. E il tema su cui vogliamo interrogare Alessandro è un po' questa doppia via che in maniera non proprio chiarissima l'America sembra voglia percorrere, chi comanda in America voglia percorrere in questo momento, una via che definirei militare, che si rifà al generale McChrystal, capo in testa delle operazioni, con l'appoggio ma anche con molti distinguo da parte del generale Petraeus, reduce tra l'altro da una brutta malattia ma che ha ripreso a essere vocale, a esprimersi sull'argomento, sul che cosa fare, una strada che chiede truppe e con una parola che impressiona abbastanza utilizzata da McChrystal, una strada che richiede anche umiltà. In pratica McChrystal ha detto vincere in Afghanistan, che sarà una cosa, come ha aggiunto Petraeus, non troppo diversa dal vincere in Iraq, cioè il risultato ottenibile è quello, ovvero mettere gli afghani in condizione di riprendersi in carica il paese. Però McChrystal sostiene che è anche una questione di tempo, bisogna sbrigarsi, bisogna muoversi, bisogna avere tutti i mezzi necessari al più presto, a partire naturalmente dalle truppe di cui chiede l'incremento. Ma c'è una nutrita parte della Casa Bianca che la vede differentemente, che non vuole mandare uomini, che vuole mandare un altro tipo di presenza in Afghanistan, una presenza fatta di intelligence, una presenza fatta di specialisti che stanino finalmente i vertici di Al-Qaeda, e che invece vorrebbe una presenza numerica ridotta. Quindi due strade che difficilmente possono correre parallele. Sentiamo Alessandro Politi che cosa ci dice al riguardo. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi, Alessandro. Buon pomeriggio a voi. In realtà quello che viene proposto come vittoria è soltanto una patta accettabile. Certo. È uno stallo virtuoso dove non si lascia un paese certamente incompiuto, ma sperabilmente sulla buona strada, che è quello che dal punto di vista analitico avevamo già previsto 2 anni fa. Ma Alessandro, perché potrebbe esistere un obiettivo più ambizioso? No. No, ci può essere invece un finale meno positivo ed è uno stallo vizioso, cioè esattamente quello che hanno lasciato i sovietici con Najibullah, che infatti ha fatto una brutta fine. Certo, certo. E come ci puoi aiutare a capire rischi e diciamo pregi connessi a questa doppia via, no? Che sembra una via militare, una via diplomatica, se vogliamo chiamarla così, che sembrano in questo momento un po' in concorrenza, soprattutto davanti alle scelte finali della presidenza della Casa Bianca? Direi che la concorrenza è semplicemente un dramma washingtoniano più o meno della stessa qualità dei drammi romani che vediamo qui. Ecco. In realtà sono complementari. Si tratta di fare una serie di operazioni militari con sufficiente personale e simultaneamente convincere a negoziare una serie di famiglie Pashtun. Questo è quello che ci si può aspettare. Certo, con i brogli elettorali di Karzai la partenza è pessima dal punto di vista politico, però se c'è una possibilità di recuperare per un risultato accettabile, o adesso mai più, perché altrimenti la situazione peggiora, anzi sta già peggiorando, perché vedere i talebani che mandano una lettera aperta alla Shanghai Cooperation Organization proponendosi in embrione come interlocutori internazionali dà un'idea della crescita politica dei settori più sofisticati di questo movimento. Certo. E un nostro ascoltatore ci scriveva ieri dicendo, a commento di alcune note sull'Afghanistan, diceva: ma insomma, perché tanta polemica sul fatto che Obama possa pensare a mandare altre truppe in Afghanistan? Anche in campagna elettorale lui ha sempre detto che, allorché era l'Iraq, no, l'argomento al centro del discorso, aveva sempre detto che per lui sarebbe stata l'Afghanistan la priorità. Però, Alessandro, di fatto c'è una questione interna di opinione pubblica, di umore, no, di atmosfera nazionale, psicologica nazionale, attorno all'idea di veder partire alcune decine di migliaia di altri soldati per uno scenario di guerra dal quale invece la maggioranza si vorrebbe sottrarre. È una operazione non così indolore, non pensi? O sono solo numeri, come ipotizzava il nostro ascoltatore? No, è chiaro che ci sono delle implicazioni politiche e di opinione pubblica, ma questi sono i problemi comuni con tutte le opinioni pubbliche occidentali in queste situazioni qua. Lo abbiamo noi, lo hanno gli inglesi, lo hanno i canadesi, insomma diversi contingenti hanno un problema di opinione pubblica, ma che è comprensibile dopo 8 anni. E per concludere, tu ritieni che vedremo in un tempo ragionevolmente breve partire quindi questo contingente americano di rinforzo? Io spero di sì, che è una cosa diversa dal prevederlo, perché significherebbe stare al centro delle alchimie washingtoniane. Certo. E spero che anche il governo italiano rapidamente prometta un incremento limitato, anche per evitare episodi di fuoco amico mediatico come quello che ci è capitato a proposito dei francesi. Certo. Va bene, grazie, torniamo sull'argomento e ringraziamo dei suoi pareri Alessandro Politi di Nomisma. Buongiorno America. Most of you covered me. All of you voted for me. Apologies to the Fox table. Questi erano i primi segnali, in momenti devo dire un po' più rilassati, della gestione di Obama della Casa Bianca, i primi segnali di quella che a tutti gli effetti è diventata ora una guerra mediatica, della quale vi vogliamo brevemente riportare, perché poi anche in questo, no, come ci stiamo rendendo conto per diverse faccende, tutto il mondo è paese, un altro capitolo di questo vecchio adagio. Di fatto, insomma, sentite che cosa dice Anita Dunn, direttore della comunicazione della Casa Bianca, nei confronti della Fox, di Fox News per la precisione, ovvero del braccio informativo giornalistico della rete televisiva di Rupert Murdoch. Dice: li tratteremo nel modo in cui si trattano gli avversari politici, stanno portando avanti una vera e propria guerra contro Obama e la Casa Bianca, e non abbiamo bisogno di fingere quando diciamo che si tratta di un notiziario che non si comporta bene. Risponde Michael Clemente, vice direttore generale della Fox. Dice che il governo Obama sta confondendo la copertura che la Fox dà delle notizie con gli spazi che invece, magari alle stesse notizie, dedicano gli opinionisti di punta della rete, gente come Glenn Beck, Bill O'Reilly e Sean Hannity, personalità molto acute, ottimi professionisti protagonisti e conduttori, ma schierati, schieratissimi a destra. E sempre Michael Clemente poi tira altra benzina sul fuoco dicendo: invece di governare, la Casa Bianca continua a essere in campagna elettorale e Fox News è l'obiettivo della loro mentalità aggressiva. Forse sarebbe meglio impiegare quell'energia per affrontare i problemi cruciali che preoccupano gli elettori. Di fatto c'è una questione alla base del tutto, poi ce ne potrebbero essere molte altre che andrebbero indagate, no? Nei rapporti tra Rupert Murdoch e Barack Obama, che non sono mai decollati, come invece forse ricorderete che dedicammo una certa attenzione molto tempo fa, ormai in piena campagna elettorale, a quell'inizio di liaison piuttosto promettente che si era stabilita proprio tra Murdoch, tra il vecchio tycoon e Hillary Clinton, che avevano trovato a suo tempo un punto di intesa, fecero degli incontri piuttosto seguiti dalla stampa americana, molto segretati naturalmente, ma si diceva che Hillary Clinton e Rupert Murdoch, in caso di probabile, si pensava allora, vittoria della Clinton, avrebbero trovato una intesa, e non a caso finirono i ripetuti attacchi che fino a quell'epoca erano partiti dalle testate più aggressive di Murdoch nei confronti della Clinton. Invece è andato avanti Obama e Murdoch in questo momento trova cosa buona, utile, giusta e probabilmente commercialmente assai redditizia, perché il successo di Fox News c'è ed è sonante ed è grande, seguire, no, coltivare un pubblico che è insoddisfatto della gestione della Casa Bianca, non si sente schierato con i punti di vista di Barack Obama e tutto sommato cerca una voce diversa, una voce dissonante, una voce che non partecipi al coro, a quel coro a cui faceva riferimento Barack Obama. I've got one television station that is entirely devoted to attacking my administration. Che continua a rispondere, come sentite, con una ironia tutt'altro che sottile. C'è una televisione che pensa soltanto ad attaccarmi, ma ricordatevi di una cosa: non manca ormai molto per cominciare quello che sarà un infinito, lungo tunnel scivoloso, una specie di ottovolante chiamato campagna elettorale. Salve a tutti. Sapete, Halloween è una festa molto strana. Personalmente io non la capisco. Ragazzi che adorano fantasmi, che fingono di essere diavoli e programmi televisivi. Ci è venuto a trovare anche Margie Simpson in questo finale di puntata. Prima di tutto, massimo rispetto a Margie, per noi sta lì su un podietto, massima simpatia. Certo, abbiamo appreso con un certo nervosismo questa notizia che i furbacchioni di Playboy, no, i signori che curano l'edizione della rivista per conto di Hugh Hefner, abbiano deciso di sbattere Margie in prima pagina, in copertina. Ci sarà lei nuda per festeggiare un numero anniversario di Playboy. Il titolo della cover story con Margie Simpson nuda è Il diavolo in Margie, e ne seguiremo sicuramente le geste, ma qui l'abbiamo colta invece come annunciatrice, perché ci ha spiegato che tra pochi giorni, tra un paio di settimane, è Halloween, ormai è una scadenza, un appuntamento di cui anche in Italia tocca tener conto, soprattutto se avete figli piccoli, quelli che hanno imparato cos'è Halloween, mentre noi lo ignoravamo assolutamente alla loro età, anzi vanno anche a suonare ai campanelli dei vicini per chiedere dolcetto e scherzetto. E allora, per concludere, sempre se avete del tempo da perdere sulla rete, vi segnaliamo, così per rilassarvi magari stasera, di fare un giro su Huffington Post, che è un famosissimo ormai sito informativo americano, dove si può prendere visione dei più brutti costumi di Halloween in circolazione per la festività 2009. Non c'è più la base. Allora, nella fattispecie abbiamo osservato con interesse un costume da protettore indossato da un bambino dall'aria infelice. Il costume consiste in un completo sgargiante di cangiante nero con bavero in leopardo e un cappello da pimp, come direbbero gli americani, completo anche di bastone e di dollari finti. c'è un costume da finto pesciolino Nemo, indossato però da una procace ragazzotta, teenager, ormai avanti in età, con scarpe con la zeppa e minigonna del buon pesciolino Nemo. Restano solo i colori bianco, nero, arancione, una vera offesa all'immaginario infantile. Altrettanto vale per un drammatico, veramente di pessimo gusto, costume da anoressica, così viene chiamato dal sito in questione, insomma uno scheletrino, altro che diabolico, una brutta presa di posizione, come anche direi il costume da telefonino, un bambino ridotto a condizione di cellulare con tanto di tasti sulla pancia. Ma il più tragico, secondo Huffington Post, che in questi casi, come fanno gli americani, no? Anche David Letterman, hanno la capacità di ridere su loro stessi, è un costume che un bambino, per fortuna viene cancellata la sua faccia, indossa, un costume, pensate un po', da kamikaze. Roba da matti, ma cosa fate genitori americani, ma come li vestite questi ragazzini? Mettetegli la mascherina di Zorro, via, dai. Buongiorno America, io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrero, in regia Valerio Rocchetti a Roma, Carmelo Lauricella a Milano, la mail buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook redazione Jefferson 3, la replica dopo mezzanotte, la diretta dopo l'una e mezza qui su Radio 24, state naturalmente tutti bene.